fazzoletto importantissimo, quello numero 12, dal titolo Dopo pranzo in cucina, e che rilecco, appetita Juvent, per vostra conoscenza adesso, capitoletto fondamentale, come vedete. Purtroppo sempre dovuto tradurlo all'impronta, laddove sarebbe infinitamente meglio leggerlo in originale. Arrivò un giorno, dovreste però tranquilli, adesso con la sistemazione. Arrivò un giorno verso le tre. Tutti erano nei campi, entrò in cucina, ma non si accorse subito di Emma. Le persiane erano chiuse. Dalle fessure di legno il sole allungava sul pavimento delle grandi strisce sottili che si spezzavano all'angolo dei mobili e tremavano sul soffitto. Delle mosche sulla tavola salivano lungo i bicchieri che erano stati usati e ronzavano annegandosi nel fondo, nel sidro rimasto. La luce che scendeva dal camino, vellutando la fuliggine della piastra, inazzurriva un po' le ceneri fredde. Tra la finestra e il focolare, Emma cucina. Non aveva foulard. Si vedevano sulle sue spalle nude piccole goccioline di sudore. Secondo l'uso della campagna, ella gli propose di bere qualcosa. Lui rifiutò, lei insistette, e finalmente gli offrì, ridendo, di prendere un bicchierino di liquore con lei. Andò a cercare nell'armadio una bottiglia di curaçao. Prese due bicchierini, li riempì fino all'orlo, versò appena nell'uno e, dopo aver brindato, lo portò alla sua bocca. E siccome era quasi vuoto, si rovesciava per berlo all'indietro, e la testa all'indietro, le labbra che sporgevano in avanti, il collo teso, rideva dicendo di non sentir nulla, mentre la punta della lingua passava fra i denti fini, leccava a piccoli colpi il fondo del bicchiere. Ella si risiedette e riprese in mano il suo cucito, che erano delle calze di cotone bianco dove faceva dei rammenti. Lavorava con la fronte bassa, non parlava. Charles nemmeno. L'aria passava al di sotto della porta, spingendo un po' di polvere sulle pietre. Lui la guardava muoversi, le guardava muoversi, la polvere la guardava muoversi, e sentiva soltanto il battito interno della sua testa con il grido di una gallina lontano che faceva le uova nel cortile. Emma, di tanto in tanto, si rinfrescava le gote applicandovi la palma delle mani, che rinfrescava dopo sul pomo di ferro dei grandi alari. Ella si lamentava di provare dall'inizio della stagione degli stordimenti. Domandò se dei bagni di mare sarebbero stati utili e si mise a parlare del convento, Charles del suo collegio. Le frasi vennero a loro. Salirono nella camera di lei. Ella gli fece vedere i suoi antichi quaderni di musica, i libretti che le avevano dato in premio e le coroncine di foglie di quercia abbandonate nella parte bassa dell'armadio. Ella gli parlò ancora di sua madre, del cimitero, e anzi gli mostrò nel giardino l'aiuola da cui coglieva i fiori tutti i primi venerdì dei mesi per portarli sulla sua tomba. Ma il giardiniere che avevano non ci capiva nulla, si era così mal serviti. E l'avrebbe voluto fosse soltanto durante l'inverno abitare in città. sebbene la lunghezza delle belle giornate rendesse forse la campagna ancora più noiosa durante l'estate. E, secondo quanto diceva, la sua voce era chiara, acuta, oppure, coprendosi di languore tutto a un tratto, aveva delle modulazioni che finivano quasi in un mormorio quando parlava a se stessa, a volte allegra aprendo degli occhi ingenui e poi le palpebre semichiuse, lo sguardo pieno di noia, il pensiero che vagabondava. La sera, tornando a casa, Charlie riprese una a una le frasi che lei aveva detto, cercando di ricordarsene, di completarne il senso, al fine di ricostruire la porzione di esistenza che ella aveva vissuto nel tempo in cui non la conosceva ancora. Ma mai poté vedere nel suo pensiero differente da quella che aveva veduto la prima volta o da quella che aveva appena lasciato. E poi si domandava quel che sarebbe divenuta e se si sarebbe sposata e con chi. Ahimè, papà Ruo era ricco e lei così bella, ma il viso di Emma ritornava sempre a porsi davanti ai suoi occhi, e qualcosa di monotono come il ronzio di una trottola diceva alle sue orecchie: se ti sposassi tuttavia, se tu ti sposassi, la notte non dormì, aveva la gola serrata e sete, si alzò per andare a bere dell'acqua e aprì la finestra. Il cielo era coperto di stelle, un vento caldo passava, lontano dei cani abbaiavano. Volse la testa in direzione del Bertò. Questa pagina, appunto, che vi dicevo importantissima, è naturalmente l'inizio della storia tra Charles ed Emma. E badate bene, questa è un'osservazione che abitualmente non si fa, perché uno si accentra sulle due storie di adulterio, come vediamo in questo libro, che l'emozione, per così dire, dell'amore compare abbastanza poco nelle due storie adulterine. Compare qualche altra cosa, compare la rabbia, compare la voglia della passione, la volontà dell'amore. Qui invece compare proprio l'essere inerme della persona, uomo o donna, davanti all'amore. È pomeriggio, è estate, è campagna, è l'ora dell'amore. È l'ora dell'amore, dopo aver mangiato. Questo è un punto essenziale. Nessuno di voi potrebbe fare l'amore con 24 ore di digiuno. Nessuno. Mi chiedessero, ma nemmeno ci fosse George Clooney. No. E allora dobbiamo continuare a lavorare su questi dettagli da bravi, attenti e raffinati lettori. È estate. Ma non dobbiamo dirci una volta sola è estate, più volte è estate, fa caldo, sono le 3 del pomeriggio, lui arriva e come in ogni fattoria alle 3 del pomeriggio i contadini tornano verso sera, alle 3 del pomeriggio si trovano in campagna, quindi i servi, quindi in casa non c'è nessuno. Salvo lei. Le case di campagna erano, sono generalmente buie, e voi dovete sentire molto bene la differenza di luce che c'è, come già vi ho fatto sentire con la scena dell'ombrellino l'altra volta, fra l'interno, che è buio e fresco, le case di campagna mura normalmente avevano, mura spesse, quindi tengono il fresco, e fuori c'è il caldo del sole. Poi dobbiamo immaginare qualcosa che non ci dice qui Flaubert. E perché dobbiamo immaginarcelo? Non ne fa minimamente cenno. E perché dobbiamo capire qual è l'atmosfera. Qui non parla Flaubert di una cosa, ma ci sarà senz'altro. E se non c'è, io lettore ce lo metto. Il frenire delle cicale. È impossibile che non ci sia una cicala. Impossibile. Voi pensate che questa sia una sorta di arroganza di lettore, ma nemmeno per sogno. Il testo è qualcosa su cui dobbiamo lavorare con la nostra fantasia e con il nostro vissuto. Se vediamo questa scena, dobbiamo immaginarci delle scene nostre che ci aiutino a capirla. L'arte è sempre una sorta, la più grande arte del mondo. Mozart, il Mosè, il Michelangelo è sempre un canovaccio della nostra vita interiore, su cui si tesse la nostra vita interiore. Ci sono delle mosche. Voi sapete che questo è un romanzo, come ogni volta vi dico, di campagna. In campagna ci sono le mosche. In città è meno frequente, ma in campagna d'estate ci sono le mosche, sempre. In casa mia, mi ricordo, c'erano dei fili che venivano appesi, ripugnanti, sono a ricordarli, a cui le mosche dovevano andarsi a incollare, capite? Perché le mosche erano dappertutto, perché vicino ci sono gli animali, le stalle, quindi le mosche ci sono. Alcune mosche qui vanno a finire nei bicchieri di sidro. Il sidro è una bevanda poco alcolica della Normandia ed è fondamentale, insomma, cioè un normanno, ma possiamo dire tranquillamente, un francese senza sidro non è un francese, insomma, assolutamente no. Un americano senza sidro è perfettamente concepibile, un tedesco anche, ma un francese senza sidro non è concepibile. Nel fondo del bicchiere la mosca va a legare ronzio. Sentite questo ronzio? Quando si legge bene non bisogna lasciare il libro finché non sentiamo i suoni, no? Quest'idea delle mosche che vanno ad annegarsi nel bicchiere francamente non è molto gradevole, perché se una mosca va a annegarsi nel vostro bicchiere, voi cosa prendete? Il bicchiere lo buttate via, insomma, buttate via il contenuto. Ma il romanzo è impastato di terra, come vi dicevo, di carne e di merda. Questo è il romanzo, capite? Terra, carne e merda sono proprio gli elementi che ci sono. Quindi la mosca che sta dentro ci va benissimo. Ma adesso guardiamo una scena fantastica. È pomeriggio, sono le 3, il fuoco si è spento, quindi ci sono delle ceneri fredde. E quindi c'è un'aria azzurrina bluastra. Queste ceneri fredde danno l'idea del pranzo finito. E tutti sappiamo bene ogni giorno che cos'è un pranzo finito. Quando un pranzo si apparecchia, quanti piatti ci sono sulla tavola, specialmente se le vivande siano state cucinate a regola d'arte, attirano la nostra attenzione, non c'è dubbio. Anche estetica, prima che la pura pancia. Ma quando il piatto è sporco, non attira più la nostra attenzione. La tendenza, quando il piatto è sporco a tavola, è quella di allontanare il piatto. Se sei in un ristorante, viene il cameriere e ti cambia il piatto, no? Ma cosa significa un piatto sporco, un bicchiere sporco? Che la vita si è consumata. Un piatto sporco, un bicchiere sporco, ti dà un'idea della vita come un letto o le zante di sperma su cui si sia fatto l'amore, no? Ma macchie grandi sul lenzuolo, giallastre, queste cose qui, eccetera. Se volete entro in dettagli sull'argomento, ma penso che sappiate, è un letto non eletto senza puzza. Sono di quelli, no, complessivamente il corpo, stando a contatto con il lenzuolo, prende il lenzuolo, poi provate a non cambiare il lenzuolo per 2 settimane, provate a non cambiarlo, queste fedre bianche che diventano grigie, ed è vita quella, ed è vita l'altra parte, no? Capite? Allora, in questo clima di carne eccetera che vi dicevo, si capisce molto bene caldo eccetera, carne caldo, avanzi, tutte queste cose qui, si capisce bene questo dettaglio. Lei non aveva un foulard sulle spalle, nude, perché sono d'estate, ma essendo in casa ed essendo una signorina piena di decenza, comunque metteva sulle spalle uno scialle. Ma non aveva scialle perché diceva caldo, punto fondamentale è quello. E quindi si vedevano delle goccioline di sudore. Ora voi sapete che il sudore può essere vissuto variamente dal punto di vista erotico. Può far schifo normalmente il sudore. Cioè se io mi trovo in una giornata d'estate andando dalla Nanina a qui con delle signore, ragazze, che si reggono ai mancorrenti, lasciando olezzare liberamente le loro ascelle macerate dal sudore, e io sono costretto a star vicino con il naso, è un'esperienza, capito? Senza alcun dubbio. È altresì vero che il sudore è una afrodisia. Il sudore della persona amata può far diventare folle l'amante. Naturalmente stiamo parlando sempre in fase di costruzione dell'amore. È un po' diverso quando si tratta di due coniugi dopo molto tempo, insomma. Ma come sapete l'olfatto, i feromoni famosi sono fondamentali nella costruzione del desiderio erotico. Fondamentali. E quindi questo sudore che arriva lì ci richiama al clima complessivo, carne, piatti, sporchi, eccetera, eccetera. Piatti sporchi, qui non si dice naturalmente, si parla di bicchieri sporchi, ma è probabile anzi che i piatti fossero già stati messi nell'acquaio, no? Ma il lettore ha questo scopo di costruire la scena, no? Se no che legge a fare, potremmo dire. In Campania si offre da bere, mai acqua evidentemente, ma si offre da bere vino. E si offre da bere. E lui naturalmente si comporta secondo i modi della buona educazione. Vuole qualcosa? No, grazie. Mi scusi se insisto. Vorrebbe prendere un bicchierino di liquore con me? A questo punto diventerebbe uno sgarbo rifiutare. Ma la signorina Rouault sa che è una ragazza di buona famiglia. E quindi, oltre che molto sofisticata nei modi, perché ricorderete che aveva davanti sulla gonna, cosa aveva? Le donne bevono poco. Una donna, un uomo ubriaco è disdicevole, ma una donna ubriaca non ne parliamo. Chi segue le cose che dicevo su Mallarmé, vi ricorderete che la donna ubriaca è vista come il massimo degli obbrobri, no? Lo dicevamo l'altro giorno. Quindi lei per sé versa pochissimo. È difficile che una signora ben educata versa per sé lo stesso bicchiere che versa per l'uomo, uguale, grande, grosso. Un mito delizioso della femminilità, che poi è tutta una costruzione mentale, e che le donne devono mangiare poco, devono fare tutto poco, no? Sudare poco, ecco, lavarsi molto, sono tutti questi miti perché puzzano di più, insomma la maschilità, la mascolinità ha costruito un'idea della donna nel corso del tempo a suo uso e consumo, diciamo così, no? Poco parte che il whisky lì non sarebbe stato concepibile perché non esisteva proprio. Ma che ora so invece un liquore dolce, alimenta sentimenti dolci, capisce? Nelle nostre case del Novecento, ancora non solo nell'Ottocento, ma anche nel Novecento, si versava per esempio il rosolio, tutte cose dopo il pranzo, che qualcuno mai ha preso. Poi c'erano anche altri, chi è che si ricorda qualche liquorino di qualche nonna che veniva versato? Lei ha pratica? Una pratica di nonne? E non venivano i liquorini dolci? È stata sfortunata. Tutte le nonne bevono i liquorini dolci. Quindi il bicchierino che ha versato per sé Emma è poco poco, giusto per tenere compagnia, come si dice, all'ospite. L'altro invece, maschio forte, deve avere un bicchiere di girasole più consistente. Ma quando uno ha versato poco nel bicchiere, dice Flaubert con la sua implacabile e mirabile precisione, per bere il fondo del bicchiere non ci vuol molto, deve buttare la testa all'indietro. Se non che buttare la testa all'indietro è un qualcosa che ti fa pensare anche ad altre cose. Quando è che si butta la testa all'indietro? E dice, siccome era quasi vuoto, si versò per bere la testa all'indietro, ascoltate bene questa descrizione, le labbra sporgenti, il collo teso, ella rideva di non sentir niente. Ora, nella vostra attitudine normale, voi ragazze, qua, voi non state, se non vado errato, con la testa all'indietro, con le labbra sporgenti. Quando è che si sta con le labbra sporgenti, no? È sempre il mio solito giochetto, ma serve comunque. Se io vado dal gestore del bar e mi dissi che il gestore del bar sta con la testa all'indietro, le labbra sporgenti e il collo teso, cosa penserei? Mentre io gli chiedo pagare un prodino e lui sta con la testa e io gli chiedo, buon uomo, bravo, si distenda. Ecco, uno sta in quelle posizioni quando è in una sorta di estasi, a meno che il barista non sia in uno stato di estasi. Quando uno fa l'amore sta in questa posizione. E se voi fate caso alle statue, se fate caso a statue del Bernini, andate a vedere la Santa Teresa del Bernini, per esempio, che sta all'Arco Santa Susanna, o la Beata Ludovica Albertoni che sta a Trastevere, ma ricordate l'iconografia delle mistiche? Una mistica? Come sta la mistica? Così? Eh no, la mistica sta così. Sta esattamente con il collo teso, la testa all'indietro, no? Testa all'indietro e collo teso è come una volontà di donazione del proprio corpo, di donazione a Dio di se stesse, no? E quando uno, per l'appunto, è in una situazione amorosa, sta in questa posizione. Sta donna, l'uomo non sta così, l'uomo è complementare, diciamo così, Ma se una donna stesse invece con la testa all'ingiù, con il collo piegato dall'altra parte, la testa giù, vi lascio organizzare nella vostra mente la scena. Si sta con la testa all'indietro, testa all'indietro, e si sarebbe molto sgradevole, come quando le due persone si baciano e tu scopri nel momento del bacio, tu che stai baciando l'altra persona a distanza di un centimetro, che l'altra persona ha gli occhi sbarrati, ti sta guardando con gli occhi sbarrati, e tu pensi che non sia molto assorto. Allora l'altra chiude gli occhi, tu fai finta di aprirli per vedere se poi li chiudi quella bastarda, cioè se entra parte invece la donna vecchia, brutta, la moglie di lui, aveva dei dentoni grossi, e questa invece ha dei figli, è una persona raffinata. Guardate, a questo punto che cosa succede? Mettiamo che due persone si siano effuse in uno slancio amoroso per la prima volta, dopo solo un po' imbarazzati, perché si sono lasciati andare. E a quel punto, non avendo dimestichezza con il modo di trattare con il sesso opposto, scelgono la soluzione più onorevole di tutti i timidi di questa terra: stanno zitti. Quindi lei questa volta china la testa, finito lo slancio orgasmico, china la testa, si mette a lavorare, perché le brave donne stavano cucendo e devono continuare a cucire. Lui, poveretto, che se lei è timida, lui potete immaginare com'è, più timido ancora, anche lui sta zitto, non parla più e sente semplicemente quest'aria che passa sotto la porta. In questo romanzo ho avuto occasione di dirvi che gli elementi Empedoclei, i quattro elementi costitutivi del mondo, dominano: aria, acqua, terra e fuoco. Abbiamo già avuto modo di vedere per quanto riguarda il fuoco: dove c'è fuoco c'è accensione, passione. Abbiamo visto per l'acqua, vi ricordate l'acqua che sgocciola dal tetto? Terra, e beh, questo è un libro pieno di terra, naturalmente, in modo perfino indecente. Aria. L'aria funziona, questo elemento in Flaubert, in modo vario, cioè funziona. È un senso di respiro che uno prova. L'aria che passa è un contatto con la vita. Ma teniamo conto che se la situazione è di effervescenza emotiva, quest'aria può essere, ricordatevi bene, calda, bollente, come a rispecchiare lo stato della situazione che si sta vivendo. Lui sente il battito interno del cuore, no, non del cuore, del battement intérieur de sa tête, un battito nella testa. Stanno zitti, non osano più dire nulla, hanno detto e fatto troppo, e si sente il grido di una, il pullo di una gallina. Dobbiamo sempre ricordarci l'elemento terra, sempre ricordarci dove siamo. Siamo in campagna, la gallina ci fa ricordare: non dimenticate, lentoni, che stiamo in campagna, non siamo in un appartamento di città. Quanto a lei, sentite la meraviglia. Quando una donna è eccitata, ha caldo. Il caldo delle donne è vario. Ci sono le donne in età giovani, non di menopausa, le donne si riscaldano sempre in viso. Quando sono in menopausa hanno quelle che si chiamano le caldare, che sono cose sgradevolissime. Lo dico non per averle provate io personalmente, come potete intendere, ma per aver sofferto la presenza purtroppo di persone che le provavano. E quando si è eccitati, il viso diventa caldo, alcune arrossiscono. Nella fattispecie, quando uno ha caldo, che cosa fa? Cosa fa lei quando ha caldo? Si butta dall'acqua addosso. In casi estremi, non è che tutti quando abbiamo caldo possiamo versarci una bottiglia di acqua minerale, perché sarebbe un po' sgradevole, no? Ma con le mani, cerca con le mani di raffreddarsi la faccia dopo averle messe sui pomi degli amari, no? Per cercare di avere le guance meno impertinentemente rosse e rivelatrici. È chiaro il concetto? Bene. E a questo punto viene fuori la stupidità. Chi è l'interlocutore di Emma? Un dottore. Di che si deve parlare con un dottore? Ormai la storia del padre è finita. usiamo questo eufemismo, molto gentile nei confronti. Quindi per il suo compleanno mi invitò a pranzo, a parte il fatto che il pranzo era qualche molto buono, è una situazione, guardate, capita nella vita tanto di questo genere, ha un bel lavoro, insomma non era francamente il massimo che si potesse, ma comunque, e mi aveva fatto un regaletto. Ecco, allora quale regaletto mi poteva fare? Anche perché non poteva essere compromettente, voi capite, insomma. Io gli ho regalato un librettino francese, cioè avendo capito che io sono un francesista, aveva pensato che non dovesse interessarmi nient'altro che la letteratura francese. Quindi non è che mi aveva regalato, non lo so, un paio di calzini bianchi, non lo so, una no, un librettino francese, perché la sua mentalità non riusciva a concepire che potessi essere interessato anche, non lo so, alla politica, no? A una squadra di calcio, no. Cioè, lei immaginava probabilmente che io, non so, andassi a letto con un pigiama francese, insomma, cose di questo genere. E qui è, come quella famosa professoressa d'inglese che non c'è più. Quando arrivai a Torbergata agli inizi, sono stato uno dei fondatori della facoltà, ci parlo raccontato molte volte. Ci incontrava al bagno, cioè, e io mi diressi verso la parte uomini, lei si diresse la parte donne, però non si trattenne dal dirmi, mentre ognuno andava verso la sua direzione, di dirmi bonjour, per farmi capire che anche lei sapeva il francese, insomma, sostanzialmente questo. E lei parla della salute. Ora, la salute del giovane, salvo tristi eccezioni, è spesso un'ottima salute, non hanno problemi di analisi, è solo dopo che si prendono. Allora, e quindi di che cosa può parlare? Degli stordimenti. Sentite come questa storia degli stordimenti è una malattia femminile ed elegante. Cioè, non dice, ho le emorroidi, che poteva anche, neanche per solo, dice, degli stordimenti. Come una volta si usava a dire, un esaurimento nervoso. Come sapete, la frase più stupida che si possa, cosa vuol dire esaurimento nervoso? Che è il cervello che si esaurisce? Non era un modo. Dice, allora le chiede, sentite la banalità del tutto, perché sapete che Flaubert è impazza contro i luoghi comuni, le chiede, forse andare al mare mi farebbe bene? Cioè, frasi del cavolo messe lì per riempire un vuoto. E però di lì si passa alla vita personale, perché quello che due innamoraturi vogliono fare è raccontarsi la vita passata. Hanno una voglia irresistibile di parlare dello zio, del papà, della mamma, del cagnolino, cose di cui a nessuno farebbe assolutamente niente, ma l'altro invece assorbe voluttuosamente queste notizie. Io mi ricordo una volta ero il padre di una ragazza da me concupita, aveva un acquario e io ero diventato un fanatico degli acquari, mi vergognavo naturalmente, avevo sempre odiato gli acquari, ma ormai che c'era un acquario nel mio orizzonte mi sembravano la cosa più bella della vita. Quando si entra in una certa dimensione, tutti, come vi ho detto più volte, diventiamo particolarmente stupidi, insomma l'ala dell'imbecillità è su di noi, insomma. Quindi Charles comincia a parlare, lei del suo convento, lui comincia a parlare del suo collegio. E lei è una persona bigotta. E lei è una persona bigotta, una persona molto legata ai sentimenti familiari, per cui fa vedere l'aiuola dove andava a prendere i fiorellini tutti i primi venerdì del mese, perché sapete che è un rito che era accettato dalla religione cattolica, di una certa Santa Maria la Coque, era che se tu facessi la comunione tutti i primi venerdì del mese, per 9 venerdì del mese, avresti avuto l'anima salva. Quindi anche se abito Torino, ma facevi, e ci voleva un grosso spirito da business, cioè proprio organizzare, se tu per quel giorno avevi mal di stomaco, no, dovevi fare la comunione comunque, cosa terribile, spaventosa, no? Bastava questo fare, e allora non so, ma se Berlusconi fa tutti i periodi del mese, comunque lei faceva, prendeva questi chiomi dalla tumora e poi lo porta nella camera, non pensate nulla di male, naturalmente, lo portava nella camera con spiriti più innocenti possibili, gli fa vedere i regalini, i libri che aveva, perché sapete, più uno è ignorante, più rimane legata ai libri di scuola, perché sono gli unici libri che sono entrati nella vita, quindi li tiene tutti, anche i libri delle elementari, eh? Dice una cosa tipica da ragazza annoiata di provincia. Se voi frequentaste la provincia sapreste che non ci sono viaggiatori più instancabili e frenetici. Io ho insegnato in provincia all'università di giovani di provincia. L'idea, insegnavo a Lecce, l'idea di rimanere a Lecce era impossibile. Il meno che facevano era di andare a New York per il weekend, spendendo un patrimonio, una fortuna, di andare a muoversi in treno per andare a vedere una mostra che stava a Bergamo. Il bisogno dello spostamento, del viaggio, e quindi lei l'idea di dover rimanere in campagna, questa non ce la fa, vorrebbe andare in città, ma mentre sta facendo questi discorsi, andarsene dalla campagna, andarsene in città, è come se cantasse con se stessa, perché quando noi, attenzione ragazzi, questo è un punto importante, quando noi facciamo con qualcuno un dialogo molto intimo, a un certo momento non parliamo più con quel qualcuno, parliamo con noi stessi. È come se quel qualcuno fosse diventato uno schermo su cui proiettare il nostro discorso, la nostra persona. Ma le cose più intime non si possono dire ad altri, si dicono a se stessi davanti a un altro. Il povero Charles ne aveva avuto di emozioni dopo tutto ciò. Quando torna a casa la sera fanno tutto quello che gli innamoraturi fanno di questo mondo. E sono le cose più belle dell'amore. Quando si comincia a ricostruire, uomini e donne l'abbiamo fatto tutti, parola per parola, cercando di non farcene sfuggire nemmeno quello che l'altro ha detto, e si telefona magari, questo è più femminile, all'amica per sottoporre il contesto della conversazione e per vedere lui che cosa intendeva. Ore e ore al telefono sono state occupate nel corso dei secoli da tentativi di chiarimento delle parole del partner possibile. Cosa intendeva dire? Dialoghi lunghissimi, notturni con amiche. Mi ha guardato in un certo modo, forse voleva rimproverarmi. Perché guardava quella stronza? Questa poteva essere un'altra cosa. Perché? Per quale motivo? Com'è ingiusto questo mondo? E via in questo passo. Qualcuno desidera una persona di sesso opposto, perlomeno secondo una morale eterosessuale, una pratica eterosessuale, vorrebbe starci insieme. Non ci piove. E quindi una volta, e anche adesso, il matrimonio è una strada, una buona strada. Ma lui può pensare, lui povero dottore, di sposare una donna così bella? È impossibile. È proprio fuori dalla sua portata. Sarebbe come, non so, appunto, abbiamo citato il summenzionato, pare che è un grande successo, George Clooney, insomma, una signora di, diciamo, di mezza età, non alla nostra età, insomma, ma insomma una signora di mezza età non può pensare di sposarsi con George Clooney, a parte il risvolto economico che sarebbe tutt'altro che trascurabile, insomma, no? E quindi dice semplicemente sì, lei si sposerà sì, lei si sposerà, ma e se io mi sposassi? Badate la sottigliezza, non dice se io mi sposassi con lei, no, se anche, è come se non osasse dire con lei, però ventila questa possibilità. Sapete come va a finire? Lo sapete benissimo, si sposano, il padre è entusiasta, parla lui anzi alla figlia, e insomma una famiglia di contadini, di proprietari contadini, questo è un dottore, insomma, per quello che sia, quindi lo stato sociale evidentemente aumenta, avviene il matrimonio, ma vi faccio notare questa finezza, che come avrebbe voluto sposarsi Emma? A che ora secondo voi? Ecco, vediamo un parte, se facciamo sapere, non c'è. Come? Alle 7? No, di notte. Voleva sposarsi a mezzanotte e con le torce, perché questo sarebbe stato sommamente romantico, perché come fra poco vi dico, lei si era nutrita di cose romantiche, di cose tumultuose, tempestose. Poi il matrimonio avviene invece con le 18 ore, mi pare che siano 18 ore in cui dura il pranzo complessivamente, sapete, quelle cose terribili, spaventose, in cui c'è una specie di ipotesi di felicità, il riso, la torta, il giro fra i parenti, le bomboniere, i bimbi che ruzzano intorno, che non vogliono più stare a tavola, il caffè, l'ammazza caffè, non so, noi siamo di Roma, quindi sapete cos'è l'ammazza caffè? L'ammazza caffè, gli spaghetti, aglio, olio e peperoncino dopo tutta sta roba, perché gli viene bene allo stomaco, gli sposi che si assentano alla fine, il bacio ovviamente alla sposa, i pensieri maliziosi degli astanti sui giovani sposi che stanno, secondo un mito di prima notte naturalmente, che stanno per... voi questa notte che stanno per consumare, tutte le terribilità dei luoghi comuni, insomma, sono qui mobilitati evidentemente, e si comincia la vita matrimoniale e noi vediamo uno splendido capitoletto che ora consideriamo. 1, 2, andate al capitolo 7, poi andate avanti, no, non vi ho aspettate, di tornare indietro, eccolo qua, allora andate al capitolo 6, però non è, è prima, è due pagine prima, e comincia, con il te donc heureux. Ci siamo? Era dunque, vediamo, ricordatevi, siamo al capitolo 6, due pagine prima. Ricordatevi, poi che può darsi che ve ne dimentichi, non posso, una cosa molto importante, noi citiamo spesso come paragone Anna Karenina, vi devo dire una differenza fondamentale tra Madame Bovary e Anna Karenina, ricordatevi se non lo ricordo io la prossima volta. Era dunque felice. Questo capitoletto, il numero 13, lo intitoliamo A letto, virgola, al mattino. Era dunque felice e senza alcuna preoccupazione al mondo. Un pasto tête à tête. Vi sentite bene? Un pasto tête à tête. Una passeggiata la sera sulla strada maestra. Un gesto della sua mano sui suoi capelli. La vista del suo cappello di paglia appeso alla spagnoletta, spagnoletta sarebbe una cosa più complicata, è la sbarra che chiude le persiane, ma qui possiamo mettere la maniglia, appesa alla maniglia di una finestra e molte altre cose, dove Charles non aveva mai supposto piacere, componevo adesso la continuità della sua felicità. A letto, al mattino, fianco a fianco sul guanciale, guardava la luce del sole passare fra la lanugine delle sue guance bionde che coprivano a metà le ali ripiegate del suo berretto da notte. Visti così da vicino, i suoi occhi gli sembravano ingranditi, soprattutto quando apriva parecchie volte di seguito le palpebre svegliandosi, neri all'ombra e blu cupi all'aria, avevano come degli strati di colore successivi e che più spessi nel fondo andavano a rischiararsi verso la superficie dello smalto. Il suo sguardo di lui si perdeva in quelle profondità e vi si vedeva in piccolo fino alle spalle, con il foulard che aveva intorno alla testa e la camicia nella parte alta schiusa. Si alzava, si metteva alla finestra per vederlo, lei si alzava, no, lui si alzava e lei si metteva alla finestra per vederlo partire. Era rimasta coi gomiti sul bordo fra due vasi di geranio, vestita della sua vestaglia che era lenta intorno al corpo. Charles, nella strada, affibbiava gli speroni su un paracarro e lei continuava a parlargli dall'alto, strappando con la bocca qualche pezzettino di fiume o di erba che soffiava verso di lui e che, volteggiando, restando sospeso in aria, faceva dei semicerchi come un uccello e andava, prima di cadere, a impigliarsi nei crini scompigliati della vecchia giumenta bianca immobile alla porta. Charles, a cavallo, le mandava un bacio. Lei rispondeva con un segno, richiudeva la finestra, lui partiva. E allora, sulla strada maestra, che stendeva senza finirlo più il suo lungo nastro di polvere attraverso sentieri scavati dove gli alberi si curvavano in a cupola, in sentieri di cui il grano saliva fino ai ginocchi, con il sole sulle spalle e l'aria del mattino alle narici, il cuore pieno delle felicità della notte, lo spirito tranquillo, la carne contenta, se ne andava ruminando la sua felicità, come quelli che masticano ancora dopo pranzo il gusto dei tartufi che stanno digerendo. Una delle cose più entusiasmanti della vita coniugale, quando la vita funziona naturalmente, è proprio questa abitudine del letto, ma intesa in senso in cui invece la sessualità non è più il momento dominante, intesa nel senso che il letto vuol dire la dolcezza dell'intimità. Uno aveva, parlo almeno di quei tempi, non dei vostri scioperati tempi in cui avete contubernalità avvinghianti fin da 6 o 7 anni di età. Per molto tempo si è vissuti da solo nel letto, no? E quando si è stati in letti singoli, non in letti matrimoniali, e allungando una mano dall'altra parte o dall'altra non si trova nessuno. Ci sono molte persone che hanno allungato le braccia da una parte e dall'altra per tutta la vita, non hanno incontrato nessuno. Quando ci si sposa, quando oggi non ci si sposa più, quando ci si mette insieme, insomma. Una cosa dolce, bella, struggente e di difficile in realtà comprensione e percezione, come invece è di facile percezione la sessualità, è l'intimità che viene fuori quando io allungo un braccio e trovo un'altra persona che do. La scena qui rappresenta loro due a letto al mattino. Ma prima notiamo queste piccole abitudini di vita quotidiana che lui segnala. Quello che gli importa è un pasto tête à tête. Quando si comincia un rapporto, voi sapete che nel mondo d'oggi, per intenderci, i ristoranti sono molto importanti. Ci sono varie tappe in un rapporto. C'è quella del cinema, per esempio, degli spettacoli. Questa viene dopo, perché quando ci si ama molto non si va al cinema. Si vuole parlare agli inizi, e quindi si va alla pizzeria, perché i soldi voi li avete molti. Si va in pizzeria, si va al bar, si sta dove si spende meno possibile, la sostanza è questa, insomma. Poi viene il tempo del cinema, il quale ha una sua melanconia, se vogliamo, il tempo del cinema. Perché il tempo del cinema è quando non si parla più, e allora si va al cinema, avete capito? Perché si sta insieme, vicini, passano due ore quantomeno, ma infinite coppie di mezza età passano la loro domenica al cinema, illudendosi di stare insieme quando ormai non stanno più insieme di fatto. E poi un'altra cosa è bella, le abitudini, il cappello che viene appeso alla spagnoletta, alla finestra, cioè oggetti che tu in casa, nella tua casa, non c'erano, compaiono indumenti, una camicia, e questo dà un senso dolcissimo, struggente, che si condensa in questa frase: non sono più solo, non sono più sola. E al mattino Charles guarda lei si sta svegliando, ha naturalmente un berretto da notte, ci si vestiva diversamente, per dire che non sono abitudini che poi lui ha un foulard in testa, un berretto da notte. Io avevo uno zio e, come vi dico, non sono nato alla fine dell'Ottocento, questo volevo testimoniare, il quale aveva la camicia da notte, i costumi si sono evoluti, ma aveva la camicia da notte. E non c'era, adesso in tempi di talibani eccetera, che hanno tutti un vestitone moderno, ma noi siamo proprio abituati, però insomma andare a letto con la camicia da notte per un uomo io non l'ho mai fatto, devo dire, assolutamente. Lui aveva il berrettino, il foulard, e lei aveva il berrettino con le alette, e lui vede una sorta di lanugine, e il nostro corpo è coperto di peli, non sto dicendo che una donna pelosa può essere notevolmente schifosa, naturalmente, ecco. E noi sappiamo benissimo con quanta cura le giovani donne tendano a limitare il deportare osceno delle sopracciglia, per esempio, tagliarsi i peluzzi dal labbro, e insomma tutta questa cosmesi profonda, ma tocca a volte anche gli uomini, insomma, no? E c'è questa lanugine bionda, il sole che arriva, lei che si sveglia, e gli occhi. Abbiamo già definito questi occhi, che erano castani, neri, ma qui si scopre un altro colore, azzurri. Questa varietà degli occhi di Madame Bovary fa pensare proprio che in fondo quello che importava era lo sguardo dell'osservatore, nient'altro. E lui vi si perde. Guardate questa definizione importante, lui vi si perde, perché quando si è innamorati, vi concludo con questa frase, ci si perde nell'oggetto d'amore, nel senso che non si sa più che cosa fare, non si sa più che cosa vedere. Concludo. Lui si alza, esce, si affibbia gli speroni e lei dall'alto gli soffia amorosamente dei pezzettini di erba e di fiori. È innamorata? Ma fate caso che non gli dice nulla. Poi vedrete quando gli parla come gli parla. Diciamo che è come quando uno ha una macchina nuova che vuol persuadersi che quella sia la macchina migliore del mondo. E lei vuol persuadersi di amare quest'uomo. Quanto a lui non ha bisogno di persuadersi di niente. Perché vive una vita puramente animalista. Quindi lei da un canto vuol persuadersi di amare, lui dall'altro vive una felicità assolutamente animale.